in primo piano. Mercoledì 8 settembre 2010, io voglio partire intanto da chi sceglie i temi economici, come il Sole 24 Ore che sceglie il tema economico della finanza, con il vertice dell'Ecofin a Bruxelles, vigilanza made in Europe. Questo è il titolo del Sole 24 Ore. Tremonti, nessuna emergenza per i conti pubblici italiani, ma in prima pagina c'è anche la vicenda di Federmeccanica, la decisione di Federmeccanica di recedere dal contratto del 20 gennaio 2008 firmato anche dal sindacato della Fiomma. Federmeccanica recede dal contratto del 2008, questo è il titolo d'apertura, che è il titolo anche d'apertura più polemico dal punto di vista invece dell'approccio di Manifest Unità. Il manifesto, ci sono due tute blu con braccia incrociate, e il titolo che disdetta, mentre l'Unità, anche qui foto di operai di tute blu, il pugno del padrone. Queste sono le scelte per quel che riguarda i quotidiani che puntano su questo tema, economia e finanza, mentre la politica sugli altri quotidiani. Il Corriere della Sera, via Fini perché Napolitano dirà no. Il Corriere della Sera dunque punta sullo sguardo del Quirinale. Fini al Premier, non mi dimetto, questo Repubblica. La Stampa, Fini, non mi dimetterò. Beh, insomma, ieri Fini è andato da Mentana, no? Una performance, immagino, seguitissima. Il Giornale, gli imbarazzi di Fini in TV. Il Messaggero, Fini, resto al mio posto. Mentre il Fatto Quotidiano, Berlusconi, o meglio B, loro lo chiamano B. B minaccia Napolitano, manda avanti Minzolini. Questi titoli, come vedete, i due grandi temi sui giornali, economia e politica, ovviamente, ma io vorrei partire da altri due temi. Sapete, mi piace anticipare qualcosa di diverso, di taglio diverso, per il gusto di leggere qualcosa che non siano le solite cose, ovviamente notizie più importanti che trovate sui giornali, ma magari se andate nelle pagine interne trovate anche cose di interesse più generico, più generale, ma importanti. Per esempio, oggi non potete perdervi sul Sole 24 Ore, c'è per la verità anche su altri giornali, un qualcosa sulla scuola. Il rapporto OCSE che ogni anno viene fatto annualmente, in questo caso si intitola Education at a Glance 2010, presentato a Parigi, che fa una fotografia della scuola all'interno appunto degli stati OCSE. Laureati, pochi e senza lavoro, questo è il titolo abbastanza impietoso del Sole 24 Ore, che riassume così il punto di vista dell'OCSE sull'Italia. L'Italia impiega nell'istruzione il 4,5% del PIL, solo la Slovacchia è più indietro, cioè solo la Slovacchia dà meno risorse alla scuola rispetto all'Italia. Claudio Tucci ne scrive: pochi laureati, quelli che conquistano l'ambito titolo di dottore fanno fatica a trovare un posto di lavoro, soprattutto se sono donne. Questa è la fotografia della scuola italiana. Attualmente, dati 2008 di 30 stati membri, la percentuale di laureati in Italia è al 32,8%, la media OCSE è del 38%. E poi l'altro dato, gli investimenti nell'istruzione. In questo caso solo la Slovacchia investe meno di noi negli stati OCSE, tanto che molti titoli dei giornali, di altri giornali, sono molto duri, cioè ecco, il governo non investe nella scuola. C'è un'intervista però al ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, fatta da Cristina Casadei, sempre sul Sole 24 Ore, a corredo, a commento di questa fotografia dell'OCSE. Dice la Gelmini: non è vero che spendiamo meno. La spesa per studente sostenuta dall'Italia nella media degli altri paesi $7,948, ma fa sapere l'articolo del Sole 24 Ore, è vero, ma è focalizzata sulla scuola primaria e secondaria a scapito dell'università. E però Maria Stella Gelmini dice: bisogna spendere bene, evitare gli sprechi puntando sull'efficienza. Come si possono reperire nuove risorse, chiede Cristina Casadei, razionalizzando la spesa, il che vuol dire che verranno tagliate le cattedre dei precari? No, la razionalizzazione della spesa significa che non debbono esserci sprechi. Quella che a me insegnava la scuola è essere una risposta a questa un po' tautologica del ministro Maria Stella Gelmini. Comunque, focus interessante sulla scuola che trovate sul Sole 24 Ore, che vi segnalo, così come su Avvenire, che vi dedica anche l'editoriale di prima pagina. Chi abbandona la scuola è abbandonato, questo è il titolo dell'editoriale di Alessandro D'Avegna, perché quest'anno, anche quest'anno, secondo i dati del Ministero, ci saranno 126.000 definiti fantasmi su Avvenire, cioè giovani che abbandonano la scuola, quindi non continuano l'iter scolastico, non lasciano tracce, non lavoreranno, non hanno futuro. Così dice Avvenire. Ma voglio anche, prima di andare alla politica dopo la pubblicità del meteo, e leggere, ieri abbiamo detto, quella che era la P, e poi metto un beep, di Michele Placido, che ha detto Vallanzasca, ci sono personaggi che hanno fatto di peggio in Parlamento. Oggi possiamo dire, dai, l'idiota del giorno, e leggiamolo così, è questo reverendo Terry Jones, pastore evangelico e promotore di che cosa? L'11 settembre, per commemorare le vittime dell'11 settembre, bruceremo il Corano. Bruceremo il Corano. Anche qui mi hanno insegnato a scuola che i libri già di per sé non vanno mai rotti, non vanno mai rovinati, al limite regalati, dati in biblioteca. Questo emerito idiota ha deciso di bruciare il Corano. E così si guadagna la prima pagina dalla CNN a tutto il mondo e anche nei giornali italiani. 11 settembre al rogo il Corano, lo leggo su Repubblica, ma è anche in prima pagina del Foglio, il generale Petraeus, che comanda le truppe americane in Iraq, contro il pastore che vuole bruciare il Corano al grido di l'Islam è del diavolo. Questo è il pastore Terry Jones, che dice il Foglio è rimasto da solo, non c'è neanche uno straccio di associazione che in nome della libertà di opinione gli stia facendo da spalla. Contro di lui il Vaticano, la Casa Bianca, il capo delle forze armate in Iraq, insomma è riuscito almeno questo idiota a mobilitare mezzo mondo, ovviamente preoccupato. Già nel mondo musulmano ci sono manifestazioni di grave protesta per cercare di contrastare l'iniziativa di questo con baffoni a manubrio che ieri si è presentato alla CNN col suo bel volto a crearci qualche problemuccio. Va bene, meteo e pubblicità e poi ripartiamo dalla politica.